sospiro, ed un temporale, ostetrica ti batte, non ti chiede come va. Benvenuto qui fra luce e confusione, nessuno che t'ha chiesto se volevi, se volevi uscir di là. Cose bene e t'ha spiegato il male, si sappia regolare, prima o poi c'è l'aldilà. Guardare e non toccare, guardare ed inguiare, sei un po' nervoso ed un motivo ci sarà. Vivo morto ex, vivo morto ex, vivo morto, vivo morto, vivo morto ex. Fa una croce qui, firmati così, vivo morto, vivo morto, vivo morto. Che ti ha rubato tempo con la sua mediocrità, e puntano al tuo tempo e alcuni sì signore, perfino un giuramento e un anno di tua proprietà. Vivo morto ex, vivo morto ex, vivo morto, vivo morto, vivo morto ex. Siamo sempre qui, come cosa chi? Vivo morto, vivo morto, vivo morto ex. Faccia di chi t'ha visto ex, ex. La faccia di chi ti pensa ex. La faccia di chi ti vuole. C'è posto per chi sa stare a posto, il posto tale accesa e la casetta in Canada, il sabato la spesa, il giorno dopo in chiesa, e sei un po' nervoso ed un motivo ci